I'm a member of shattered illusions, and am I needless to say another song facing nothing new? But love is big in every man, every nation. Ben ritrovate, ben ritrovati per una nuova puntata di Coccoli al Silicio, che quest'oggi, dato sì che è un paio di settimane che non riuscivo a trasmettere, ho deciso di fare un'incursione notturna nella regia di Radio Wombat in un buco del palinsesto. Non so se ho cacciato in malo modo qualche replica o qualche pezzo della playlist che vi piaceva particolarmente, cavoli vostri sostanzialmente, nel senso che io d'altra parte non ce l'ho fatta. In questi lunedì c'erano troppe cose da fare, da sbrigare in quel di Firenze, e quindi trasmetto ora senza dar fastidio a nessuno, però non nel giorno e nell'ora che mi era stata deputata. E quindi con questa piccola forzatura arbitraria che ho deciso di fare sul palinsesto, non sarà una puntata invero lunghissima, però c'erano un po' di cose che vi volevo raccontare. Peraltro, da ritorno dall'ultimo appuntamento per il corso che si teneva all'Eclab Fiorentino in Polveriera. L'Eclab si chiama IFDU, che vi ho già ripetuto mille volte probabilmente da questi microfoni, ma ve lo ridico di nuovo. Quest'oggi si concludeva questo primo giro, questa prima tornata di corsi per l'anno 2018, che infatti va a finire, e quindi era l'ultima puntata. Penso ci sarà comunque forse un appuntamento ancora prima delle feste. Aggiornatevi magari dal sito se sarà un appuntamento pubblicizzato, se no provate a passare in polveriera a chiedere quando si trovano quelli buffi figuri dell'E-Club IFDU. E niente, poi prossimo anno vedremo un po' che cosa si inventeranno, ecco. La prima notizia con cui volevo aprire, la notizia fresca fresca di oggi: la NASA, dopo un grosso data breach del 2016, ha dichiarato che intorno al 23 ottobre di quest'anno ha iniziato a investigare su un altro possibile data breach dei propri server. Infatti, avevano registrato, non è spiegato benissimo, comunque un'intrusione di qualche tipo che, come si legge da un memo sostanzialmente interno mandato ai propri impiegati, dovrebbe aver reso possibile l'accesso ai dati di gran parte dei dipendenti, tra l'altro dati abbastanza, diciamo, interessanti per come funzionano gli Stati Uniti, perché c'era anche il numero di questo Social Security Numbers, che penso sia una cosa abbastanza importante in quel della. Insomma, delle Americhe, e poi i dati, insomma, i nomi, cognomi, insomma, i dati personali di diversi impiegati. Se hanno mandato un memo a tutti quanti, evidentemente è stato un bel problema per loro. È interessante notare come già nel 2016 ci fosse stato un problema, sempre per un grosso data breach, che si è tradotto poi in un rilascio di 276 giga di informazioni sull'internet, tra cui anche log di diciamo, delle scatole nere dei veicoli aerei della NASA, diverse credenziali, quindi password, dei propri utenti, e tra l'altro in quell'occasione, questi hackers che avevano, diciamo, preso di mira, la NASA, avevano anche tentato di far sostanzialmente ammarare un drone, che nell'articolo che sto leggendo riporta il costo di quell'oggetto, che era di 222 milioni di dollari, e avevano tentato di farlo ammarrare nell'Oceano Pacifico, sostanzialmente cambiando le rotte del proprio piano, del piano di volo del drone in questione. Quindi ecco, la NASA ha avuto di nuovo qualche problema di sicurezza. Qualche mese fa, tra l'altro, avevo citato un articolo in cui si diceva che in generale, diciamo, i test di sicurezza su alcune agenzie governative, diciamo, statali americane, avevano messo in luce come il livello di sicurezza non fosse particolarmente buono, che spesso in questi test in poche ore si era riusciti ad accedere a dati riservati e a compromettere macchine, sostanzialmente, per problemi banali, quindi password deboli, servizi dimenticati e queste cose simili. Quello con cui abbiamo aperto questa sera, ve lo dico dal punto di vista musicale, visto che ora sto per chiudere questo e fare una pausetta musicale, è il nuovo album di Nene Cherry, che, boh, io in realtà pensavo fosse un mio ricordo degli anni 80-90, e in realtà ho scoperto che ha fatto un album proprio bellino bellino, proprio di recente. L'ho scoperto leggendo Internazionale, in verità. E quindi vi lascio magari all'ascolto di ancora un brano, o almeno l'inizio di un brano da questo nuovo album, e niente. Poi ci ritroviamo per un altro paio di notizie per questa puntata notturna, che, in quanto appunto puntata notturna, attualmente sono, quando la sto registrando, in realtà la sto facendo in diretta, sono quasi le 11, quindi non tirerò molto il là, perché poi mi viene sonno e so fatto così. Comunque, il brano che vi faccio ascoltare è Fallen Leaves. Sempre da quest'ultimo album, che si chiama Broken Politics, di Nene and Cherry, e ci sentiamo tra un pochino per qualche nuova notiziola. So looking at the pain now, we clearly let us down. If I could alter, shift over petty ways, plastic cups and paper plates, the quiet parties that never end, don't mean a shit. It's easier unsaid. Is it falling leaves? The bird shit on my sleeve. With no luck at all, there'd be no luck for me. Watch me come undone. Look at what you see. Just because I'm down, don't step all over me. Abbandonando questa voce abbastanza soave rispetto alla mia, che sarà anche un po' nasale e malaticcia, di Nene Cherry, con questo specie di trip hop abbastanza elegante, ecco, vi mi riprendo il microfono per raccontarvi di un'altra roba che senz'altro non vi avrà lasciato dormire la notte. Infatti qualche giorno fa, boh, tipo 5 o 6, non è una notizia freschissima, però è comunque successo la scorsa settimana, un'agenzia, un'azienda che si occupa di sicurezza ha messo in evidenza come ci sia una falla definita critica in una cosa che voi usate senza saperlo, senza sapere che lo state usando, cioè che SQLite, che è sostanzialmente un database SQL con cioè senza i cui diciamo i dati risiedono sostanzialmente in dei file, quindi è molto comodo per il mondo delle app. Ecco, sì, per il mondo delle app. Ecco, questo bug che è stato chiamato da nominato da questa agenzia che l'ha scoperto, Magellan, che non è che sia proprio un nome originale o onestamente, comunque permette di eseguire codice arbitrario o comunque malevolo su i device. Il problema è che appunto questi device sono tantini, perché questo database è parecchio utilizzato appunto nello sviluppo di app, eccetera, eccetera. Tendenzialmente, cioè SQLite, boh, sarà utilizzato da penso, non lo so, qualche svariate milionate di ci saranno svariate milionate di installazioni di questo coso sparpagliate tra computer e telefoni. E sostanzialmente cosa è successo? Che hanno scoperto, ma senza chiarirlo troppo, in maniera un po' fastidiosa, secondo me, che alcuni browser che accedevano a questo SQLite attraverso un'API, cioè un'interfaccia che permetteva dal web di interagire con il database SQL, nello specifico i test sono fatti su Chromium, e quindi però anche in qualche modo coinvolgono un po' tutti quei browser che utilizzano questo tipo di architetture, quindi sia Google Chrome, ma anche Opera, Vivaldi, anche Brave, che sono browser abbastanza famosi. Ecco, insomma, era possibile attraverso cioè inducendo l'utente a visitare una pagina con un URL costruito appositamente, è possibile eseguire codice arbitrario sulla macchina target di questo attacco. Questa roba ha bastato, cioè ha abbastanza, diciamo, creato il panico negli sviluppatori, che subito hanno rilasciato una patch per questa versione per SQLite. Diciamo che non è proprio semplicissimo, vista la diffusione anche appunto su oggetti strambi, l'applicazione di questa patch. E quindi sostanzialmente gli sviluppatori hanno deciso di non pubblicare un cosiddetto proof of concept per questo particolare problema, perché hanno detto se no è un casino, perché qua lo usano tutti, non si sa bene quanto ci si metterà e se si potrà arrivare a rimettere a posto tutti, aggiornare tutti quanti i software che fanno uso di questa cosa, e quindi non pubblichiamo sostanzialmente come fare per non creare troppo il devasto in giro. E questo è quanto. Di nuovo, appunto, si tratta di un problema alla fine piccolo e banale, sembrerebbe, però che in realtà poi per l'elevato utilizzo di questo software in componenti che magari voi non vi state neanche accorgendo che lo usano, no? Perché sono una roba di back-end, voi vedete magari solo la parte che vi si fa vedere, non sapete cosa c'è dietro, e magari c'è questo oggetto che appunto rimane lì e voi non aggiornerete mai. Però così funzionano queste cose, pace. Non è che me ne dovete fare troppo un cruccio. Io continuerei a dormire felice ugualmente, senza darmi troppe preoccupazioni, ecco. A meno che non siate degli elementi paranoici, ma io vi consiglio comunque, proprio con, ma che ve ne frega, cioè, pazienza. Però era bello segnalarvelo, ecco. Ora un altro pezzettino musicale e poi ci avviamo con le ultime due notiziole, per questa mini puntata, intrusione notturna di Coccoli al Silicio. Everything I took from another, don't need to let down. Like another promise was a promised land. Another havoc with my legacy belongs to me. Pin you to the bed, did everything I said. Took me to the death, look for solid land. I wore my cross, found a way home. Look at me now, full speed, Wikipedia fast as I catch you. You up, beat me up, eat you like a pariah. Might cheat you, beat you up, business meet you. Creeping up in bed, up the side of my head. Play dead, you raise the rent, not my time. I play dead, you raise the rent, not my time. Too fast, say that, say that. Hey, you're not my mother. Can I get a witness? I'm looking for a father. Hey, you ain't my lover. And looking for another, looking for another. Don't know you nothing. You don't know me. I owe you. You don't know me something. Don't know me something. Don't know me. Hey. Rieccomi, riprendo il controllo del microfono. Questo è un bug veramente carino che riguarda Linux e sostanzialmente si è scoperto che per degli errori, i famosi errori di sbaglio, è possibile per un utente non privilegiato, cioè non un utente con i privilegi di amministratore di root. Così si dice, ma con un UID più grande del massimo permesso dal sistema operativo, quindi un UID più grande di quella variabile chiamata int underscore max, che segna qual è il massimo, diciamo il massimo, che è un numero che in esadecimale è facile da leggere. Perché è 0, vabbè, 0x perché introduce l'esadecimale, poi è 7 e poi 2, 4, 6, altre 7f. Ecco, in decimale è molto più difficile da leggere, quindi non ve lo leggo, però sostanzialmente se voi create un utente che ha un ID più grande di questo qua, che è il massimo che teoricamente dovrebbe essere supportato, sostanzialmente questo utente è in grado di eseguire qualsiasi comando sulla macchina. E ora uno dirà: vabbè, ma che mi frega? E effettivamente così sembrerebbe non molto utilizzabile. In effetti non è che proprio sia un bug, anziché, cioè, è molto divertente. Cioè, se vi piacciono queste cose, fa quasi ridere. Però uno dice poi sì, però poi che mi frega, effettivamente non è che te ne fai molto. A meno che non pensiamo a un ambiente dove uno non è che deve aggiungere l'utente a mano, perché uno di solito per aggiungere un utente deve essere già l'amministratore della macchina, perché di solito è una cosa che fanno gli amministratori. Quindi a meno che non ci sia un qualche tool, diciamo, grafico o weboso, che degli utenti non privilegiati possono utilizzare per creare degli altri utenti con privilegi bassi, no? E quindi io so questo trucco e me ne creo uno con un ID molto alto e poi lo uso per eseguire comandi come amministratore, però è un ambiente un po' così, però quando è che è veramente un po' peggio la situazione? Quando si utilizzano magari delle infrastrutture le infrastrutture sistemistiche basate su un server LDAP, ad esempio. Perché a quel punto, siccome l'LDAP è essenzialmente un database staccato, che però di solito è integrato, viene interrogato dai servizi di sistema, cioè io anche solo riuscendo in qualche modo a arrivare e a impadronirmi del database LDAP, sono in grado di creare un utente di questo tipo. Sembrerebbe comunque una roba poco sfruttabile, però è vero che molto spesso l'LDAP viene utilizzato sostanzialmente per delegare la creazione degli utenti, no? Cioè per isolarli in qualche modo questo aspetto dall'amministrazione diciamo amministrativa con la shell di root. Ed è vero che spesso il server LDAP è una macchina a sé stante, che quindi potrebbe essere una macchina in qualche modo vulnerabile. E quindi qua si aprono già degli scenari per cui questa cosa sempre buffa e non diciamo è velocemente sfruttabile, ecco, potrebbe diventare però il grimaldello. È vero che appunto probabilmente tutti gli sistemi operativi faranno, cioè correranno ai ripari, però insomma intanto questo bug c'è, è buffo, io ve l'ho detto, se non altro perché appunto pertiene a quegli errori strambi che non sono difficili da capire, perché non è stato difficile spiegarlo, come poteva essere per altri attacchi magari molto più, cioè attacchi molto più complessi, però è comunque una roba che accade ancora nel 2018, cioè comunque sono passati 20 anni e più dalla diffusione di Linux, ma in realtà qua si parla proprio di sistemi Unix-like, quindi tendenzialmente diciamo che sono passati ben più di 20 anni, forse 40, però ancora accadono queste cose, in che a me mi mette speranza nell'umanità, perché vuol dire che continuiamo a sbagliare, quindi se continuiamo a sbagliare cioè vuol dire siamo ancora umani e questo è bello dal mio punto di vista, che appunto non sono un paranoico della sicurezza informatica, sono solo uno che pensa che siano delle cose divertenti con cui giocherellare. E con questa notizia, quasi quasi, anziché continuare a parlare ancora per tanto, chiudo questo mini inserto notturno, anche perché non ho altre notizie fresche e interessanti. Chiaramente sul podcast della puntata, vi lascio qualche link di approfondimento a queste cose che vi ho detto, così ve le potete andare a rivedere. In particolare di quest'ultimo bug hanno pubblicato anche un proof of concept, che in verità non è niente di che, è abbastanza semplice da capire, ecco, non è niente di incomprensibile, e quindi vi saluto a tutte e a tutti. La prossima settimana spero di avere più argomenti, anche perché ho appena acquisito tipo 25 numeri di internazionale dei mesi scorsi, che mi sto spazzolando, sto trovando anche un sacco di articoletti interessanti, di cose che mi piacerebbe raccontare, anche se magari non sono aggiornatissime, ma magari non le avete mai sentite, o almeno non le avete mai sentite con il commento della mia voce, che potete anche dire ma che ce ne frega, e vi capirei, però se a me mi va di farlo, e quindi insomma, ve lo prendete e basta. Quindi magari la prossima puntata cercherò di essere meno autistico e meno tecnicoso, e però di lasciare più spazio alla critica diciamo politico-sociale delle notizie. E chiudiamo sempre con Enen Shery, ve la lascio ascoltare un pochetto. Questo è un brano che si intitola Shotgun Shack. E buonanotte a tutti, visto la tarda ora, sono già le 11:10, qua è ora di andare a dormire, mica si sta qua a perdere ancora tempo ad ascoltarmi. Neanche io perdo ancora tempo ad ascoltare me stesso, ecco. Know that gun is gonna get loaded. See my name before you pull it. Too late, you know, just took that bullet. Looking front to back, through the shotgun shack. You decide to slow, to run fast, run fast. Catching up with you, too slow to move. It's gonna get you, the playground rules. You can cry now, don't even try. No way you can turn, you can even run away. Two can cry now, don't even try to ride. You can hide now, you can even turn away. Shotgun, living in the shotgun shack. In the back, living in the shotgun shack. In the back, living with the shotgun. Living in the shotgun shack. Living in the shotgun shack. Living in the back, living with the shotgun.